Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo all'appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Salutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, torniamo con la memoria. Lo scorso mese di agosto il crack della Winjet, voli bloccati, voli soppressi anche in partenza da Venezia verso Catania e viceversa. In questi giorni, tra l'altro, la stessa Winjet ha chiesto un risarcimento danni all'Alitalia di 162 milioni, ma chi ancora aspetta risarcimenti sono le persone che quei voli dovevano prendere e che non hanno mai preso. A che punto siamo? Sì, allora Mirko, il punto in cui siamo, non vorrei annunciare ai consumatori rimasti coinvolti nella vicenda che siamo in un punto morto, però siamo in un punto in cui Winjet ha chiesto al Tribunale di Catania il concordato preventivo. Spiegheremo poi cosa significa questo in termini pratici e come questa cosa può allungare un pochino la tempistica di un eventuale risarcimento. Ma vorrei spendere due parole perché fondamentalmente la questione di Winjet, come hai detto te, ha interessato moltissime persone, in particolar modo del Veneto, che si sono rivolte all'Adico, che dovevano andare a Catania dovevano da Catania rientrare a Venezia e si sono trovate, avendo dei voli prenotati o un albergo prenotato, a dover sobbarcarsi costi, oneri e accessori in più per far rientro, per partire, perché rispetto a quella che era la data prestabilita non hanno potuto essere garantiti nel tragitto in cui i consumatori dovevano recarsi fondamentalmente nei luoghi di villeggiatura, e parliamo anche di comitive. Ricordiamo insomma il caos di quei giorni negli aeroporti, davvero situazioni anche drammatiche. E dunque la Winjet, hai detto, ha chiesto il concordato preventivo. Cosa significa? Il concordato preventivo è uno strumento previsto dalla legge che una società in difficoltà economica, grazie al quale cerca di evitare il fallimento, si rivolge al tribunale e si impegna, prima di definirne il fallimento, a trovare una soluzione con quelli che sono un po' i creditori di cui vanta crediti. Questo cosa vuol dire? Che è un passaggio in più, perché se di fronte a un fallimento un consumatore, tramite l'Adico in maniera autonoma, può partecipare a un'insinuazione dover aspettare quello che è un concordato preventivo significa che da un lato la società vuole fare qualcosa per rimettersi in piedi, però dobbiamo renderci conto che purtroppo la legge tutela per ultimo quelli che sono un pochino i clienti che dovevano in questo caso partire, rispetto a quelli che sono i creditori privilegiati, quali potrebbero essere in primis i dipendenti, ma in secondo i fornitori con cui Winjet aveva stretto dei rapporti commerciali e che vantano crediti. Noi sappiamo che purtroppo il consumatore che è rimasto coinvolto per alcune centinaia, in qualche caso migliaia di euro, purtroppo in questa situazione può solo attendere quelle che sono lo sviluppo della vicenda e le decisioni dei tribunali, ma certamente sia che sia un concordato preventivo sia che sia un'insinuazione del fallimento ci sono sempre poche speranze, mentre l'augurio che dobbiamo fare noi come Adico per tutelare i consumatori e sperare che questa cosa si risolva favorevolmente è che la compagnia riprenda a volare. Eh sì, perché riprendendo in qualche modo poi i rimborsi potrebbero arrivare. Attualmente dicevi c'è un vicolo sostanzialmente cieco per quanto riguarda i rimborsi. Ulteriori consigli che possiamo dare a chi ha acquistato i biglietti senza poi poterli utilizzare? Allora noi innanzitutto come Adico la prima cosa che consigliamo ai consumatori e che abbiamo anche fatto noi come associazione è quella di mandare una diffida alla compagnia, perché comunque in questo caso il consumatore mette in mora la compagnia e interrompe quelli che sono i termini prescrizionali entro i quali poi una persona non può più avanzare richieste di risarcimento. Come detto, mandare una diffida significa prendere un foglio di carta, allegare tutto quello che sono state le vicende con cui il consumatore è rimasto coinvolto e possibilmente conservare tutte quelle che sono le documentazioni di spesa che hanno dovuto sostenere anche in più per far fronte a quelli che sono stati i servizi. Pensiamo a chi magari ha dovuto prendere il pullman per trasferirsi da un aeroporto all'altro, chi ha dovuto pagare magari un'altra compagnia per poter rientrare, o chi ha subito dei danni e non ha potuto usufruire delle vacanze perché magari non è riuscito a partire quel giorno là, non ha più potuto trovare la coincidenza o l'albergo disponibile, raggiungendolo magari 2 o 3 giorni dopo, che magari con un altro vettore avrebbe potuto, o non si è trovato nella condizione di aver ricevuto i trasferimenti garantiti come il pacchetto poteva prevedere. Poi, ripeto, dobbiamo attendere la data del 13 gennaio 2013 come termine in cui i tribunali di Catania deciderà questa concordato preventivo se è percorribile o meno, e dopodiché staremo a vedere se si tratta di un fallimento o di una ripresa di attività. Appunto, con la ripresa di attività c'è qualche speranza, nel caso di fallimento c'è un'ulteriore prospettiva che ha una definizione strana, si chiama insinuazione al passivo. Di cosa si tratta? Allora, io qua purtroppo meno vorrei spiegarlo con delle esperienze negative che l'Adico ha avuto, ma che rispecchia un po' quello che accade in Italia. Noi dobbiamo pensare che in questi ultimi anni abbiamo partecipato a delle insinuazioni al passivo di altre compagnie, come pensiamo alla Mayer, che era di lì, che aveva la sede legale a Vicenza, la Sky Europe, e adesso abbiamo WinJet. Abbiamo partecipato a insinuazioni al passivo a Todo Mondo, che aveva coinvolto 20.000 consumatori. Abbiamo partecipato e assistito anche i consumatori nel caso del fallimento di Viaggi del Ventaglio, e abbiamo visto che quando si tratta di fare un'insinuazione passivo, anche se è l'unica possibilità che un consumatore ha di poter recuperare qualcosa, in realtà poi è sempre rimasto con un pugno di mosche in mano, in quanto con insinuazione passivo i tribunali nominano un curatore, valuta quella che è la posizione debitoria della società nei confronti dei creditori, stima quello che è il patrimonio immobiliare. Facciamo un esempio, mettiamo che WinJet ha un valore complessivo di patrimonio immobiliare equandato di 10 milioni di euro, ma vanta una posizione debitoria di 100 milioni di euro. Teoricamente il giudice dovrebbe confiscare tutto, mettere all'asta tutto, vendere tutto, quindi già qua i tempi si allungano. Con quello che riesco a recuperare dovrei restituire in quota a parte quello che i creditori vantano, ricordando, come abbiamo detto poco fa, che in questo caso i consumatori rimasti coinvolti sono gli ultimi a essere tutelati, perché non sono quelli privilegiati rispetto a tante altre, dei primi sì, i dipendenti. Insomma, ancora una volta l'anello debole della catena, o l'ultima ruota del carro, insomma, per usare un altro termine. Caso WinJet dunque ancora al centro dell'attenzione, vedremo a gennaio che cosa succederà, ci torneremo sopra. Intanto noi ti ringraziamo, ti salutiamo, appuntamento alla settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.